Lei cosa risponde? Ma sono pazzi. Rambo usa le pistole, uccide le persone, ripropone la storia americana, mentre io dico alla gente che c'è un modo per stare in buona salute, per evitare i dottori, per non prendere farmaci. Ma la paura di invecchiare c'entra qualcosa in questa passione per il fitness? Probabilmente. Certo, l'ho fatto per tutta la vita e... Devo dire che ora io mi sento molto meglio e piena di energie. Ma lei la paura di invecchiare ce l'ha o no? Se ho paura di invecchiare? Certamente. In Dio lei ci crede? Yes. Signora Fonda, lei è una donna forte, una donna d'affari, proprietaria della casa di produzione cinematografica che produce i suoi film, però dice di essere molto emotiva e molto sensibile. Ecco, qual è il segreto di questo mix, di questa perfezione? Per me è il fatto di avere tante persone meravigliose intorno a me che dirigono e che fanno tutto. Io ne prendo solo il merito. Ma suo marito in tutta questa perfezione, questo mix, quanto c'entra? Tutto. Mi dà pace, sicurezza. Lei con la sua militanza è stata certamente un modello per molte donne nel mondo. Ecco, oggi si definirebbe ancora femminista? Yes. Perché? In che senso? Nel mio intimo, nel mio cuore, nei miei interessi, io credo e lotterò per l'eguaglianza delle donne ad ogni livello. Qual è oggi per Jane Fonda la nuova frontiera della lotta per realizzare completamente l'emancipazione femminile? Il primo problema che mi viene in mente è il rifiuto di pagare alle donne salari equi per un equo lavoro. Molte donne lavorano nei settori dei servizi, le impiegate ad esempio, ebbene, guadagnano la metà di quanto guadagnano gli uomini per lo stesso lavoro. Così questa è la prima cosa che deve accadere, è che le donne abbiano un'uguale possibilità di accesso alla vita economica degli Stati Uniti. Una donna presidente, secondo lei, sarà mai possibile negli Stati Uniti? Oh, yes. Dopo la viabilità continua la serie dei faccia a faccia con la storia di Pietro Valpreda. Mix 24. I faccia a faccia della storia. Il faccia a faccia di oggi ha per protagonista Pietro Valpreda, anarchico accusato ingiustamente per la strage di Piazza Fontana. Era il 1981, il tribunale di Catanzaro aveva appena concluso il processo di secondo grado con l'assoluzione di Pietro Valpreda. Queste le sue dichiarazioni 2 giorni dopo la sentenza. Pietro Valpreda, nato a Milano il 29 agosto del 32, ballerino, anarchico. Di definizioni per lui ne hanno coniate tante, hanno detto che è un eroe coraggioso, che è una bestia umana, un idealista puro, un mostro ributtante, l'uomo che odia il mondo, una vittima predestinata del potere, un disadattato, un malato, un mitomano, un inguaribile poeta, un furbo di tre cotte, un saggio calcolatore che ha gestito la sua avventura per viverci meglio. Gli hanno contestato 16 morti e più di 80 feriti, ha fatto anni di galera, poi l'hanno messo fuori. Forse ci siamo sbagliati, hanno detto. Lui dice che non c'entra e sono in molti a crederlo. Alle 9.32 di venerdì 20 marzo 79 gli hanno detto no, non ci siamo sbagliati, sono insufficienti le prove. Come ha preso la notizia della strage di Milano il 12 dicembre del 69? Dal giornale ha letto. Come ha saputo la notizia della sentenza di Catanzaro l'altro giorno? Sempre dai normali canali di informazione, radio e televisione, con gli avvocati, giornalisti eccetera, ho parlato diverse ore dopo. Torniamo indietro, quando il giudice Occorsio, poi vittima del terrorismo nero, le disse le contestiamo la morte di 14 persone e il ferimento di altre 80, cosa hai pensato? Che era matto. Perché scelse Guido Calvi come avvocato difensore? Perché mi aveva difeso in un processo di pochi giorni prima per una rissa con i fascisti. Come conobbe Giuseppe Pinelli? Bene, nei tempi della militanza anarchica, erano anni che ci conoscevamo, perché adesso il momento preciso dove ci siamo conosciuti non potrei più dire. E chi è stato per lei Pinelli? Beh, un compagno, un amico, ci conoscevamo da anni. Pietro Valpreda, lei incontrò Calabresi, anche lui morto assassinato, che ricordo ne ha? Un tecnocrate del potere. Qual è stato il momento più brutto di tutti questi anni? Beh, ovviamente il giorno che sono stato incriminato la famosa frase che hai detto prima di Occorsio, e l'altro in marzo quando hanno incriminato anche tutta la mia famiglia togliendomi praticamente tutti i testi di difesa. E il momento più bello? La nascita di mio figlio, quando mi sono sposato, alcune giornate coi compagni, giornate belle ce ne sono state. Chi è la persona che oggi le è più vicina? Mia moglie, mio figlio, mia zia, compagna Nanke, c'è diversa gente vicina. A quali ideali sta educando suo figlio Tupac? Beh, non è che faccia un'educazione prettamente anarchica, faccio un'educazione libertaria, anti-autoritaria. E perché il nome Tupac? Beh, era un indio peruviano che aveva combattuto contro gli spagnoli, il nome completo era Tupac Amaru. Poi è stato volgarizzato e è diventato Tupamaro, e io ho preso quel nome per mio figlio. A che età è diventato anarchico? Beh, credo verso 14-15 anni. Che cos'è per lei l'anarchia? Libertà, anti-autoritarismo, autogestione della propria vita. Lei ha studiato dai frati Barnabiti al San Censo. Cosa le è rimasto di quell'esperienza? Beh, non tutto è positivo e non tutto è negativo. Se non altro è rimasto una certa impostazione metodologica nel leggere, nel studiare, forse anche nell'esprimersi. Valpreda, la sorella di nonna Rachele è stata per lei come una mamma, perché? Boh. Per quanto ne sappia io, mio padre e mia madre avevano un bar, vi era mia sorella e mia zia aveva una discreta possibilità economica, non aveva figli, mi ha preso con lei nel paesino e ci sono rimasto, siamo rimasti vicini anche dopo quando io ho preso la mia strada. Che cosa l'ha spinto alla carriera di ballerino? Beh, all'inizio diciamo erano i tempi del dopoguerra, l'amore per il ballo, per il boogie boogie principalmente, e da lì ho scelto una certa via professionale. Niente. Da militare è stato caporale, come sono andate le cose sotto le armi per un anarchico? Non è certo stata una bella vita. Beh, abbastanza male, non più le volte che ho consegnato un CPS in CPR. Perché chiamò una bausciata il suo primo guaio giudiziario quando con altri 11 ragazzi faceva parte della banda di San Siro? Beh, perché effettivamente è stata una bausciata, erano i tempi delle bausciate allora. Come conobbe Nino Sottosanti, detto Nino il fascista, il sogia di Valpreda, e come entrò lui nel circolo degli anarchici? E quando mi risulta, Nino Sottosanti non ha mai appartenuto al Ponte della Ghisolfa di Milano. Avrà frequentato alcune volte il gruppo, diciamo, un po' in quella situazione, in quell'atmosfera che c'era nel 68, nel 69. E come, come fece Merlino a entrare nel vostro giro? Beh, Merlino posso parlare per quanto riguarda il gruppo nostro del 22 marzo, io Merlino l'avevo conosciuto e praticamente l'ho conosciuto al gruppo anarchico di via Baccina, perché adesso come abbia fatto a entrare nel gruppo anarchico di via Baccina, questo non lo so, io l'ho conosciuto praticamente che era già un militante anarchico. 40 giorni di isolamento totale e 100 ore di interrogatorio al suo ingresso in carcere, com'erano le condizioni di quel carcere? Beh, erano ovviamente terribili, come sono le condizioni di tutti i carceri, indipendentemente dall'imbiancatura delle pareti che vi possa essere. Oltretutto io non ero in una cella con le pareti imbiancate, ero in una cella alta 11 metri, che vecchissima, eccetera. Possiamo dire solo che era una situazione ignobile. Perché in carcere fece un tentativo di suicidio? Io non ho fatto un tentativo di suicidio. Si è detto. Beh, ne hanno dette tante cose. Perché secondo lei hanno fatto scoppiare la bomba trovata inesplosa alla banca commerciale? È uno dei grandi interrogativi dell'istruttoria di Piazza Fontana, in quanto che era la prova più lampante che poteva far risalire gli attentatori, e l'unica prova è stata distrutta. Che fine ha fatto Leonardo Klops, che fu definito alla sua spalla? Si è sposato, lavora e fa pure attività sindacale. Mario Scialoia, che se ne intende, ha scritto che la soluzione di Valpreda sarebbe stata controbilanciata con la soluzione di Giannettini. Ma hanno assolto pure Freda e Ventura. Come mai, secondo lei? Beh, ma questo era già implicito nel modo di comportamento di come era iniziata l'istruttoria. Si dovevano coprire i veri colpevoli, non si doveva mai arrivare ai mandanti, agli altri strateghi. Il processo per questo è stato letteralmente rapinato a Milano, portato a Roma, da Roma è stato sospeso e ritornato a Milano, hanno scelto una sede adatta che era Catanzaro e dopo 11 anni hanno raccolto i frutti di quelli che avevano seminato 11 anni fa. Ecco, torniamo in carcere, cosa ha rappresentato per lei la corrispondenza con la scrittrice Giuliana Cabrini? Ha significato molto, perché uno che si trova privato di tutto, l'importanza diventa un certo tipo di corrispondenza, e la Giuliana Cabrini entrava dentro nel novero di tutte quelle decine, centinaia di compagni in cui aveva una relazione epistolare. Una volta disse che desiderava smettere di essere il Valpreda personaggio per essere solo il Valpreda uomo. È arrivato questo momento? Era già arrivato, io ho anni che facevo un mestiere abbastanza anonimo. Ecco, che lavoro ha fatto in questi anni? Vendo libri a ratti. Perché nel 72 accettò la candidatura elettorale del Manifesto? Per uscire dalla galera. È vero che nonostante l'abbiano accusata di essere stato lei a mettere la bomba, nessun giudice le ha mai chiesto nulla su borse e timer? Mai, niente, non una parola. Domenico Porcelli, il procuratore generale di Catanzaro, ha di nuovo chiesto l'ergastolo per lei. Ammainiamo, ha detto, la bandiera Valpreda e vediamo di che stoffa è fatta. Di che stoffa è fatta Valpreda? Beh, qui non possiamo fare una questione soggettiva su anni e anni di lotta che appartenevano tutto un movimento, per cui non è che si trattava di ammainare una mia bandiera, si trattava di far rinnegare lotte e lotte che avevano portato una crescita non solo sociale ma pure di diritti civili in Italia, far rinnegare una parte della giovinezza che non era solo mia ma che apparteneva a tanti altri centinaia di migliaia di compagni, di cui alcuni sono pure morti. I compagni hanno mollato, non vado più di moda, sono sue parole a Marco Nozza, il giornalista del Giorno. Hanno mollato tutti? Non è che avevano mollato tutti, dopo la sentenza per esempio ho iniziato un giro di assemblee aperte, conferenze, dibattiti eccetera con i compagni anarchici. Ho praticamente toccato quasi tutta Italia. Dobbiamo riconoscere che da alcuni anni c'è una certa fuga nel privato, c'è un certo riflusso, che però questa sentenza in tutta la sua nefandezza ha fatto qualcosa di abbastanza positivo. Con Milano eravamo in 30.000, ci siamo ripresi la piazza, abbiamo urlato slogan, non hanno più avuto paura di essere schiacciati fra i due poteri, terrorismo da una parte e terrorismo di Stato dall'altra. Ancora sue parole, lo riconosco, Valpreda è stato anche una moda negli anni 71-75, è stato anche colpa sua? Beh, non so se è stata colpa mia, io in quegli anni ho potuto solo subire, in quanto che l'etichetta me l'avevano appiccicata addosso, quello che erano i miei sentimenti, i miei personali, le mie volontà, mi sembra che contassero poco o per dire meglio nulla. L'insufficienza di prova, ha detto lei, è sempre meglio dell'ergastolo, ma è sempre una sconfitta senza riscatto? Beh, questo qui dipenderà dalla capacità del movimento, che non sia una sconfitta definitiva. Una volta ha dichiarato, mi sposo, avrò dei figli, punto e basta, sono un uomo normale, uno qualunque, la pensa ancora così? Beh sì, come anarchico sì, non vogliamo leader, non vogliamo capi, ognuno fa la propria battaglia. Lei oggi è contro l'uso della violenza? Contro una violenza istituzionalizzata, contro una violenza di gruppi, una violenza avanguardistica, sì. Contro una sana violenza rivoluzionaria di base e degli sfruttati, no. In due parole cosa direbbe a Giannettini, Freda e Ventura? Che sono dei fascisti, chiuso, cosa devo dire? Valpreda, un'ultima domanda, c'è qualcosa che vorresti dire? Sintetizzare in due parole anni e anni di sofferenza, di battaglie, eccetera, credo che sia impossibile. Quello che, forse le due parole che voglio dire, spero solo che si riprenda nuovamente quegli spazi umani, civili e politici che in questi ultimi mesi, con la cappa del terrorismo, erano stati negati nelle scuole, nelle piazze, nelle fabbriche, nei posti di lavoro. Grazie. Eccetera. Dopo il giornale radio, la storia di Mix 24, curata da Marina Milone, racconta la vita di una grandissima interprete della canzone italiana, Ornella Vanoni.